saputo nella storia del rock and roll, la rockstar incide una canzone, ci dà il suo significato e poi c'è sempre il critichino di turno che salta fuori con le sue interpretazioni. Ma quale critichino di turno? Ci sono decine di criticoni di turno che si inventano. Come Mosconi. Come Tafani, me lo lasci dire, che si inventano le spiegazioni più fantasiose e più irreali. Parlavamo di una ipotetica interpretazione della canzone Mr. Tambourine Man. Secondo alcuni critici, ipotizzava la prima soluzione: Tambourine è anche il nome di una marca di sigarette in voga negli Stati Uniti al tempo in cui fu scritta la canzone, e nello slang newyorkese significava lo spacciatore di erba. È forse questa l'ipotesi azzeccata? Soluzione interessante, anche perché esatta! Esatta! Hai capito, il vecchio tossicone di Bob Dylan? In realtà, però, per dovere di cronaca segnaliamo che Dylan ha sempre negato di aver inteso attribuire questi significati al titolo e al testo del suo brano. E quando mai? Bob Dylan si è sempre esercitato nello smentire qualsiasi interpretazione delle sue canzoni. Tranquillizziamo anche chi ha ipotizzato che Bob Dylan fosse un po' così, un po' dell'altra sponda, un po' free, come si dice dalle mie parti. Mr. Tambourine non Fru. È l'amico del liceo col quale ebbe la prima esperienza omosessuale, e Mr. Tambourine non è dedicato al motorino, al cinquantino di Dylan. Però fantasiosa quest'ultima, sì, con il suono onomatopeico tam tam tam. Ragazzi, ripassate che domenica, se azzeccate le risposte, vi diamo la patente davvero rocker. Esiste veramente, c'è, e la vedrete con i vostri occhi. Forse. Probabilmente. Tambourine Man, nella versione dei Birds, che ebbero il buon cuore di prendere la versione da 5 minuti di Bob Dylan e renderla una meravigliosa pop song di 2 minuti e 9 secondi. Siete su Rock FM, questa è Pane, Burro e Rock and Roll. Sono le 8 e 36 minuti spaccati. Sono le 8 e 36. Le 8 e 36. Le 8 e 36 precise. Ma chi è sto qua? È bennato? Le 8 e 36. Le 8 e 36. Le 8 e 36. 8 e 36. 8 e 36. 8 e 36. A bennà. Ma vaffanculo, va. Talking Head, proseguiamo che è meglio. Ringrazio Mox Cristadoro per la segnalazione. Di che ora è? Lo useremo spesso e volentieri da qui in avanti. L'ultima parte di Pane, Burro e Rock and Roll, ne succederanno ancora di cotte e di crude. Intanto si prosegue il viaggio musicale con Talking Head. Yeah! Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? Talking Heads, gli ultimi 20 minuti, il rush finale di Pane, Burro e Rock and Roll. 335-100-7777, il nostro numero di SMS. Una super strombazzata a Matt, che sta per diventare ingegnere in elettronica. Sei in squadra con noi, Matt. Mauro: sono abbastanza rock se mi sposo il 6 ottobre e così ho due buoni motivi per ricordare quel giorno. Però vieni anche alla festa all'Alcatraz di Rock FM, eh? Un saluto anche a Nico. Ogni mattina che passa siete sempre più stupidi ed è bello così. Fottili se non regolo uno scherzo, diceva qualcuno. Ariele, ma si può questo... è Cesare che commenta il momento della air band quando facciamo finta di suonare. Ma si può passare da uno strumento all'altro? Sì. Chiedo una strombazzata per il mio amico Claudio in cerca di casa. Bella Cesare. Claudio Graziano, alla domanda freddo, rispose: sembra il passo dello Stelvio invece del casello di Melegnano. Punto la circonvalla, sono in ritardo. Graziano, dai, spingi. Luca da Genova, ho appena dato il latte a mio figlio, che ha 10 mesi, e poi mi sono messo a fare l'air guitar con i Black Sabbath. Crescerà bene? No, non credo, ma sicuramente crescerà rock. E poi ragazzi, nella giornata di quest'oggi veramente, cioè si sente che cresce la tensione per questa cosa delle patenti da vero rocker, ne sono felice, ma in parallelo, cioè cresce la tensione per gli amici di Milano che hanno deciso di venire, in parallelo cresce la tensione degli altri che si sentono tagliati fuori. Riesco a leggerlo da tanti messaggi, gente che tenta di corromperci. È già giorni che tento di tranquillizzarvi, domenica la presentiamo. Poi già sicuramente il sabato successivo la presentiamo di nuovo, la proponiamo di nuovo all'Alcatraz, a Milano sempre. Poi con calma, ve lo giuro, ve lo garantisco, verremo a Genova, in Liguria, in Toscana, in Emilia, insomma ovunque ci sarà gente che chiederà una patente da vero rocker, sappiatelo. Noi di Pane, Burro e Rock and Roll saremo lì, e forse anche Scott McKenzie, se non ha altro da fare. Burro e Rock and Roll, la trasmissione che non smette di stupirci, e ne speriamo di stupirvi. Pane, burro e rock and roll, quattro occhi aperti sul mondo. Ci mettiamo anche quelli dello stegista? 6, via. Spadino, 8. Tutta la redazione della trasmissione con gli occhi aperti, spalancati sul mondo, perché stiamo per trasmettere Le ansie in ansia. È quasi un viaggio quello radiofonico che facciamo giorno per giorno. Un po' viaggiamo con le vostre cartoline, un po' con le nostre ansie. Altro che Licia Colò, mi permetta la battuta. Esatto, le ansa in ansia. Quest'oggi dovrebbe indossare un bel colbacco perché ci trasferiamo a Mosca. E ce secondo l'ho. Me lei col colbacco fa la sua porca figura. Ce l'ho, eccolo qua. Eccolo lì, va che bello. Andiamo in Russia dove il governatore dell'Unianovsk. Si è inciampato perché la parola non è semplicissima. Ulianovsk. È una parola russa, Ulianovsk. Un po' troppe consonanti. Ha avuto un'idea geniale. Quale? Ce la dica. Qualche giorno fa, lanciata per il terzo anno consecutivo da Sergei Morozov, governatore per l'appunto della regione di Ulianovsk, la giornata dedicata al concepimento. Yeah, grande Sergei. Attenzione, un'auto, un frigo o una televisione tra i premi per chi tenterà di concepire in questo giorno un figlio e lo vedrà nascere entro il 12 giugno prossimo. Un po' come le estrazioni, quelle, il tagliando deve pervenire entro. Invece qui deve nascere un bambino, entro. Vero. Poi le racconterò un episodio personale. A proposito della nascita di un bambino, entro. Della nascita di mio padre. Mia nonna pianse perché mio padre nacque uno o due giorni prima di una ricorrenza che riguarda il ventennio, ma che non riuscirei a specificare. Tra l'altro, infatti, comunque, anche in questo caso il giorno previsto è il giorno della festa nazionale russa, quindi è stato fatto in modo tale che il figlio nasca entro quella data. E in più, secondo me, c'è anche l'intento di popolare maggiormente questa regione che forse, essendo chissà, molto fredda, a pochi abitanti. C'è da dire che con un paio di vocali ben messe questa regione già diventerebbe più carina, così, illeggibile. Ulianovsk. Le autorità hanno chiamato la nuova festività Giorno dell'Unità Familiare, ribattezzata dalla gente Giorno del Concepimento, volta a combattere per l'appunto il calo demografico russo. Si fotte! Evviva il vero movimento per la vita! Yeah. Ocean Breakdown, Led Zeppelin. Ci siamo. Siamo addirittura d'arrivo 8. Ce l'abbiamo fatta anche oggi, Spadino. Sarà, questo weekend sarà veramente dura, sappilo. Perché tu sei in squadra con me, anche tu, Freak. Allora, saluto Carranza. Finché c'è volume, c'è vita, come disse un mixerista. Moto raduno a Genova. Prenderemo l'acqua? No, sicuramente no. Emiliano da Firenze, urge strombazzata per esame di diritto e comunicazione di domani. Vale lo stesso? Sì, il sabato vale, Emiliano, stai tranquillo. Mato 69, flash meteo da Cascina Monlue. Fratello Sole saluta i rocker. Spero che non ce la meni, Gieco 62, a Firenze giornata piovosa, non riesco a venire a Milano per le due date importanti. Come posso avere l'agognata patente? Prima o poi arriviamo a Firenze. Felipex, stasera a Colle Salvetti ci saranno le patenti da vero rocker? No, perché insomma, beh, io potrei portare anche un bel salame fatto in casa e un fiasco di vino, capisci a me? Felipex, facciamo così, tu portalo lo stesso che io ci sono stasera a Colle Salvetti al Charlotte con Dome la Muerte. Intanto intaschiamo il salame fatto in casa, poi se ne parla per settimana prossima, ok? Anche l'idraulico Lomagnolo che fa gruppo a sé contro i colleghi che ascoltano l'house, disperato per la patente. Tranquilli, tranquilli. Oggi è il penultimo esame di design di architettura per Caterina. Ecco fatto. Si può fare, chiede qualcun altro, il gruppo d'ascolto di quelli che praticano scherma medievale, Morloi? Beh, come no, se non lo fai tu. Sono in ritardo, ciao Pont, ciao Kirk, Fiorentina, Analogo Firenze, Gian da Genova, Fedelissimo, Davide, Carlo, Francesco, insomma tutti voi che avete scritto quest'oggi. Volevo però, in onore della serata di domenica, chiudere così e annunciando questo brano in questo modo. Vai Dandy, spacca tutto. La dedico a Max De Rio, che so che ci tiene. Sono un ribelle mamma, Schiantos, senza la spina, Unplugged. Ed è subito pelle d'oca. Pronto? Passami la mamma, la mamma. Lo so che ancora sveglia nella stanza. Sono le 4 del mattino, avrei bisogno di parlarle un attimino. Sto bene, non è un incidente. Guarda mamma, non mi è successo niente. Stanotte non torno lì a dormire. No mamma, no mamma. Resto fuori, non c'è niente da spiegare. Giuro, non è per farti male. Dormo fuori e non farmela pesare. Sai, c'è un posto qui a casa degli amici. Parla forte, non capisco cosa dici. Lo prometto. E per favore stira la maglietta. C'è un concerto, mi serve quella rotta. Ricorda di comprarmi dei calzini. Fai mettere le borchie ai pantaloni. ma sono un ribelle, ho deciso, sono un ribelle. Mamma, ho deciso, sono un ribelle. Gli Schiantos dal vivo, prego Schiantos. Unplugged, buonanotte anche a voi, perché questa è la fine. Come dice anche Spadino, come dice anche Jim Morrison. Un minuto alle nove, è finita ragazzi. Un'altra settimana archiviata. Chiudiamo la puntata numero 20. Tra l'altro resti tra di noi. 20 è il conteggio dalla ripresa, però da quando è iniziato Pane, Burro e Rock'n'Roll è la 98. Questo vuol dire che lunedì sarà la 99 e martedì sarà la 100. Segnatelo, appuntatelo, che martedì facciamo la puntata numero 100. Si festeggia, portiamo il chinotto, quelle robe lì. Sigla! Era già partita? Sì, ok. Però fa professionale chiamarla lo stesso. È andata, vi lascio col gara. Pane, burro e rock and roll. Noi si torna lunedì. La tua colazione rock. Se lo volete, stasera sono a Colle Salvetti. Pane, burro e rock and roll. Al Charlotte con Domela Muerte. E domenica, Cascina Molue, Patenti Davvero Rocker. Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. La colazione che dà assuefazione, Pane, burro e rock and roll, che dà la buona giornata anche quest'oggi al buon Marco Garavelli. Grazie. A proposito di colazione, dobbiamo ringraziare veramente ascoltatori così, è sai difficile che mi trovarli. Mi hai tolto le parole di bocca perché volevo approfondire questo discorso con te. Allora, succede questo. Oggi sono arrivate... A random, oggi capitate che sono arrivati due. Una marea di brioche. Quindi brioche, pasticcini... Esatto. Chinotti. Abbiamo chinotto per il prossimo mese. Volevo proporti un business. Noi ci mettiamo di mattina, apriamo la finestra qui. Ricicliamo? No, le vendiamo. Le vendiamo. Però potremmo farci su poca roba. Sì, perché in questo momento il bar qui sotto non c'è. È out, quindi... Esatto. Potremmo metterci la macchina finestra. Del caffè c'è. Ci diamo il turno, mentre noi facciamo Pane, burro e rock and roll, le fai tu, quando attacchi tu ci mettiamo noi sotto. Brioche, bomboloni, chinotto. Fine giornata abbiamo... Grazie a Tino, il tassista, e a Letizia, gentilissimi come sempre. Grazie mille. Noi siamo a posto con brioche per tutto ottobre anche. Max De Rio, non fare colazione a casa, vieni qua a farlo. Esatto. Ecco. Vi lascio con Garavelli fino al mezzodì, ci si risente lunedì. Ciao. Ciao. A lunedì prossimo, ciao.